Essere e benessere di Nicoletta Carbone. E se provassimo a scrivere? Buongiorno da Nicoletta, oggi lavoriamo sulla scrittura come integratore del nostro essere e del nostro benessere. Vi piace l'idea? Allora scrivetemelo subito via mail sul nostro profilo Facebook, via SMS al 349-238-6666, ma ditemelo anche al nostro numero verde 800-24-0024. Sapete che mi piace sentire la vostra voce. Forse molti di voi stanno coltivando questa passione, magari in segreto, altri staranno accarezzando l'idea, ma molti stanno scuotendo la testa dicendo mi piacerebbe, ma non ne sono capace. Eppure, cari amici, la scrittura fa parte di noi. È una passione cui siamo predestinati, che non ci abbandona. Se decidiamo di dischiuderle la porta, si accaserà in noi. Come un sesto senso, un campanello d'allarme, un animale domestico. Scrivere è intuire, è avvertimento prima che sia troppo tardi, è istinto capace di risvegliarsi all'improvviso. Così scrive Duccio Demetrio nel volume di imminente uscita Perché amiamo scrivere, filosofia e miti di una passione, Raffaello Cortina, editore. Il professor Demetrio, che è professore di filosofia dell'educazione e della narrazione all'Università di Milano Bicocca, è qua in studio con noi. Buongiorno professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi tutti. Professore, lei scrive che la scrittura è una passione, ma molti pensano che scrivere sia più una dote, un'abilità che poi può diventare molto appassionante e in alcuni casi addirittura redditizia. Ma c'è chi davanti a un foglio bianco si accende e c'è chi si spegne. Sì, questo accade spessissimo, ma dobbiamo fare la prova, non lo sappiamo in anticipo, quindi invito gli ascoltatori e le ascoltatrici a cimentarsi subito, anche questa mattina, con qualche prova di scrittura. Purtroppo è un'esperienza umana che è mossa spesso dalla difficoltà o dalla paura di riuscire a spiegarsi attraverso la penna, attraverso lo scritto, e talvolta ci impedisce quindi di andare avanti. Iniziamo a scrivere un diario, guardiamo quanti diari oggi sono in vendita nelle librerie e dopo poche righe ci fermiamo. Ecco, che cosa c'è all'interno di tutto questo e quanto mi appassiona, quanto ricerco da molti, molti anni? Ci sono delle difficoltà legate a timidezze, a forse anche qualche momento della scuola nel corso del quale la scrittura nostra è stata come punita, ma ci sono anche delle occasioni bellissime, straordinarie per scoprire che, superata questa paura, questa difficoltà, la scrittura ci dischiude al possibile, ci consente anche di scoprire che la scrittura è una forma di aiuto, è una modalità per, forse non per guarire, ma è una modalità che ci consente di superare o di affrontare i momenti difficili dell'esistenza. La maggior parte degli scrittori e delle scrittrici che io chiamo per diletto ha imparato a frequentare, a vivere questa passione proprio perché si trovava in momenti di solitudine, di disagio e di sofferenza. Quindi scrivere è una forma di benessere. Allora noi chiediamo a chi scrive, agli scrittori per diletto, come li definisce lei, di raccontarci la loro passione per aiutarci a convincere chi ancora non lo fa a fermare pensieri, emozioni, sogni sulla carta. Professore, può mettersi alla guida di questi scrittori, motivarli magari a scrivere, dia un'indicazione, un ordine, una parola, il là, come si dice? Molto volentieri. Per esempio dovremmo incominciare forse a chiederci con una sorta di autoindagine come è nato dentro di noi questo desiderio, come si è affacciato nel corso del tempo, se poi si è fermato, oppure dovremmo anche chiederci come mai queste resistenze nei confronti della scrittura. Ora, senza scomodare la psicanalisi, certamente però ci sono aspetti che riguardano alcuni disagi, alcune difficoltà, alcune frustrazioni che ci hanno impedito di proseguire nel nostro scrivere. Oppure potremmo chiederci anche di che cosa scriviamo solitamente, se amiamo scrivere. Possiamo chiederci quali sono anche i momenti e i luoghi dove più ci raccogliamo e ci appartiamo per la scrittura. O ancora, molto interessante questa domanda, quali stati d'animo ci invogliano a scrivere, che cosa scopriamo durante il percorso della scrittura. E qui vorrei citare uno scrittore tra i più famosi, Georges Simenon, che disse: scrivere è considerato una professione, ma io non la ritengo tale. Credo che se un uomo ha l'esigenza di essere uno scrittore, vuol dire che ha bisogno di trovare se stesso. Allora forse talvolta noi non ci avvaliamo della scrittura perché non desideriamo trovare noi stessi e quindi approfondire qualcosa dentro di noi che ancora resta sconosciuto. Scriviamo per viaggiare senza più tornare, per ritrovare la strada di casa e svuotarla di ogni ricordo di noi. Scriviamo per dar vita e dimora fittizia a personaggi inesistenti, più somiglianti alla realtà che ad un inganno. Per tutto questo e molto altro ancora, amiamo o odiamo scrivere, senza saperlo, cercando di scoprirlo ancora e ancora scrivendo, credendo di saperlo, non volendo affatto saperlo, né scrivere. E io saluto uno scrittore vero, Andrea Vitali, che è in linea con noi. Ciao Andrea. Eccoci, ciao ciao. Medico e scrittore. È nato prima il medico o lo scrittore? È nato prima il bambino che è dentro di me e continua a sopravvivere. Senti, ho letto sul tuo forum che all'inizio scrivevi per un'amorosa, perché avevi bisogno che qualcuno ti leggesse. Ma sì, io ho sempre utilizzato la scrittura come mezzo per comunicare. Mi ha molto interessato quello che diceva il professor Demetrio prima. Mi ha ricordato quello che ha scritto recentemente Ferdinando Camon nel suo ultimo libro, La mia stirpe, molto bello, quando lui afferma che chi scrive è malato. E io mi identifico in questa cosa, tutto sommato. In che senso? E nel senso che uno probabilmente utilizza la scrittura come mezzo terapeutico, forse qui, cioè nella mia affermazione, c'è anche un po' del lavoro serio che attuo, cioè, nella mia vita quotidiana, però uno scrive per raccontare di sé, per raccontare delle cose che non riuscirebbe a raccontare invece oralmente, non riuscirebbe cose delle quali non riuscirebbe a parlare normalmente come fanno le persone normali. In questo senso credo che davvero scrivere sia un po' malato. Senti Andrea, a te capita adesso di scrivere solo per te? Com'è cambiato il tuo rapporto con la scrittura da quando tu sei Andrea Vitali lo scrittore? Io non ho mai scritto per me, allora questa è una cosa sulla quale posso mettere la mano sul fuoco. Ho sempre scritto con l'intenzione di comunicare con gli altri, anche per me, perché per me la scrittura, così come la lettura, è narrare, proprio raccontare una storia, e senza una storia da raccontare la scrittura non esiste. Non voglio essere assolutista, questa è una mia posizione assolutamente privata e criticabilissima, però la vedo così. Se io non ho niente da raccontare, non mi approccio assolutamente al foglio di carta bianca, perché mi spaventa, so che annoierei in prima persona me stesso e poi dopo quelli che eventualmente andrebbero a leggere le cose scritte. Professor Demetrio. Sono molto d'accordo con Andrea Vitali, la scrittura è nata migliaia di anni fa per comunicare e questa sua storia continua a vivere dentro di noi. Anche lo scrittore principiante o professionista che affermi che scrive soltanto per se stesso forse mente, perché la sua scrittura comunque interiormente, inconsapevolmente, si rivolge a qualcuno. Può essere anche un fantasma, può essere un desiderio non ancora ben definito, ma noi abbiamo sempre un interlocutore. Può essere talvolta soltanto il foglio di carta nel quale noi ci confidiamo, nel quale ci raccontiamo. La forma, per esempio, di scrittura diaristica assume quasi sempre questa modalità. Noi scriviamo sul diario ciò che stiamo vivendo, direi contenti di poter tenere soltanto per noi intimamente quanto abbiamo scritto, però talvolta, lo sappiamo tutti, certi diari sono stati lasciati come per caso. Alla vista degli altri. Abbiamo in linea con noi Cesi, ci chiama dalla provincia di Milano, 800 24 0024. Buongiorno Cesi, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, complimenti per la trasmissione che io seguo tutti i giorni in ufficio, da quando mi arrivo alle 9 l'accendo per la paura di perdere l'orario. Grazie. Ho chiamato perché anch'io sento il bisogno di scrivere. Io ho 59 anni, tra l'altro sono una disabile, sono sposata felicemente con due ragazzi ormai grandi, sono nonna. Sono la prima di 7 fratelli, praticamente io ogni giorno, ogni 2-3 giorni scrivo lettere d'amore, d'affetto a fratelli, a nipotini, sms, e a volte ci sono però persone magari insensibili che non capiscono il bisogno che io ho di esternare, perché ho proprio un bisogno dal cuore di dire quello che, di dar voce al mio cuore, di dirlo, quello che, di scrivere quello che io sento. Ed è vero che poi io mi libero, mi sento bene, mi sento tranquilla, soddisfatta. Andrea, un commento a Cesi, che ha la passione della scrittura, ma tante volte si accorge che le persone non capiscono. Ma oddio, bisogna tenere conto della insensibilità, diciamo, di certe persone, questo è ovvio, ed è altrettanto ovvio secondo me che c'è un tipo di scrittura che è fatta per raccontare una storia, e c'è un tipo di scrittura che è appunto diaristica, intimista, che quindi si rivolge solamente a una ristrettissima cerchia di persone, e che dovrebbero essere quelle persone che riescono a cogliere, certo, quello che tu vuoi comunicare. Accesi, di continuare a scrivere. Io naturalmente vi invito a chiamarci, tanti consigli per voi dai nostri esperti, anche voi mi raccomando dateci i vostri. Io non dispenserò consigli, ma racconti d'autore. E Accesi, faremo recapitare a casa Philip Roth Il Seno. Grazie Accesi per essere intervenuta. Andrea, come medico, quindi consiglieresti di scrivere a... Come medico mi sembra un regalo ideale lo splendido romanzo di Philip Roth. Consiglierei anche un altro regalo, un altro Roth, però Joseph. Sì? La cripta dei Cappuccini, non è male. La cripta dei Cappuccini, magari al prossimo, adesso vediamo se lo troviamo per il prossimo ascoltatore. Grazie ad Andrea Vitali per essere stato con noi, buona giornata. Altrettanto a voi, grazie e buon lavoro. Grazie Anna dalla provincia di Monza Brianza, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, amore mio, ma io tanti mesi fa le ho mandato un libro alla ricerca dell'armonia, gliel'ho mandato in redazione. Io ascolto possibilmente ogni giorno la sua trasmissione, che mi dà tanta energia psichica, perché lei ha un modo di esprimersi che va proprio nel profondo delle Grazie, persone. Grazie Anna. E lei scrive oltre ad ascoltare Essere Benessere? Ho scritto questo libro molto bello. E con una ricercatrice di arte e terapia, proprio promossa dal CNR quando era presidente professor Rossi Bernardi. Sì. E perché ho creato anche un film. Un film in CNR mi ha dato i soldini per metterlo su pellicola. Poi appassionata come sono della natura, che è il mio equilibrio personale, ho scritto questo libro che è molto fotografico, perché sì, faccio anche fotografia, ma è anche molto... Cosa le dà, Anna? Perché così lasciamo anche spazio agli ascoltatori che sono già qua, che gli scrittori per diletto, professore, sono tanti, li abbiamo in linea. Anna, che cosa le dà la scrittura? Perché la consiglia? Perché descrivendo questa immersione nella natura io ho sempre trovato il mio equilibrio, e quindi lo suggerisco anche agli altri. Grazie Anna. Quindi, sì. Io suggerisco di usare tutti i cinque sensi mettendosi nella natura. E quindi questo... un'immersione della natura, professor. Grazie Anna per così trasportare tutte le nostre sensazioni nella scrittura. È un viaggio terapeutico, di sensoterapia anche. Sì, anche perché quando noi scriviamo innanzitutto viviamo già un'esperienza sensoriale, teniamo in mano una penna, digitiamo sul computer e spesso ci accade di scrivere di quello proprio che stiamo facendo, ma i sensi tornano inevitabilmente nelle nostre esperienze di scrittura, perché quando ricordiamo qualcosa della nostra storia, della nostra vita, ecco che i ricordi, soprattutto dell'infanzia, sono sempre legati a delle sensibilità che poi si riaccendono, e trovando in questo caso l'ausilio sempre della scrittura, in età adulta, anche in età anziana. È come se ci fosse un filo conduttore che accompagna la storia di ogni scrittore o scrittrice, sia professionista che per diletto. Allora, mi sono dimenticata di dire che ad Anna faremo ricevere a casa La Metamorfosi di Kafka. Intanto per noi è tempo di andare a sentire i mercati, poi il meteo, e intanto vi ricordo di fare sempre un saltino nel nostro Daily Lab, dove i nostri esperti ogni giorno ci danno consigli per imparare a stare meglio. A tra poco! Essere e benessere. Scrivere. Scrivere per sé, scrivere per gli altri, per diventare famosi, scrivere per cancellare, scrivere per scherzo, scrivere per non piangere o per piangere meglio, per stare bene, per mettere ordine, per perdersi o per ritrovarsi. Scrivete, mi chiamate 800 24 00 24. E la passione si sente a Radio 24, ma la passione si scrive e si legge. Da maggio ad oggi, voi siete qui, ha ricevuto quasi 500 storie. Racconti di una pagina in cui Matteo Caccia chiede agli ascoltatori di scrivere un episodio della loro vita, una piccola storia realmente accaduta che racconti qualcosa di chi l'ha scritta. Sono arrivate storie di ogni genere, storie d'amore, di lavoro, di amicizia, di abbandono, storie di piccoli episodi che costellano la vita di ognuno di noi. E noi, in attesa di nuovi dettagli, salutiamo Matteo Caccia, che è in linea con noi. Ciao Matteo. Ciao Nicoletta, buongiorno. Allora Matteo, tu che cosa hai capito? Capito è una parola enorme, diciamo che ho intuito alcune cose in sostanza, perché come dicevi tu, da maggio, cioè da quando abbiamo cominciato a lanciare questa campagna per Voi Siete Qui, sono arrivati appunto quasi 500 racconti, e sono 500 racconti che in teoria ricalcano quello che noi avevamo chiesto. Ed era: raccontateci un episodio della vostra vita che non sia la vostra biografia, che non siano delle riflessioni personali, che non siano delle pagine di diario. Ci serve una piccola storia che vi è capitata realmente, che vi sia capitata quando eravate bambini, che vi è capitata ieri pomeriggio o che vi è capitata 5 anni fa, ma che vi sia realmente accaduta e che abbia appunto la fattezza narrativa di una storia, cioè abbia un inizio, uno sviluppo e una fine. Dalle storie che abbiamo letto insieme a tutta la redazione, agli altri autori e alle storie che continuano ad arrivare, è a quantomeno una cosa, sì. Che le persone che hanno scritto avevano necessità di raccontare un pezzo della loro vita. Sì. Non so se l'esigenza fosse quella di avere qualcuno che ti stava a leggere o comunque ad ascoltare, ma comunque qualcuno che fosse come un piccolo confessore, per cui si instaura un rapporto di fiducia con la persona a cui mandi queste storie, e lui come dire, si prende carico di un pezzo della tua vita, per cui tu mi racconti un pezzo della tua vita, un pezzo della tua storia, io la prendo, poi nella fattispecie in Voi Siete Qui, io lo dico apertamente, mi prendo l'onere e l'onore di metterci le mani in quella storia, perché magari è troppo lunga e va accorciata. È una sorta di riscrittura, professor Demetrio, cioè, una condivisione che è ma funziona anche Da un punto di vista di una solidarietà che si stabilisce tra chi scrive e chi legge, è una necessità, ne abbiamo parlato già prima, abbiamo bisogno di lettori, anche indefiniti, anche sconosciuti. Chiunque scrive un libro non sa mai chi sarà il lettore, ma è importante e significativo anche, direi, quel momento di intimità che si stabilisce tra queste due figure, e direi interessante anche quando, come oggi sta avvenendo, ci sono persone che si dedicano nel volontariato, per esempio, nelle attività di cura, a raccogliere storie dall'orale di persone che non scriverebbero mai o che non possono più scrivere. E quindi ecco che abbiamo inventato i nuovi scrivani. Sono delle figure nuove, delle figure che noi formiamo alla Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, che danno un grande contributo non soltanto alla persona che ha la possibilità così di rileggere ciò che ha raccontato, la propria storia, un episodio, ma che coinvolgono anche le famiglie. Certo. Perché spesso le famiglie non sapevano di una serie di eventi, di fatti, e questo resta per la memoria. Matteo, più donne o più uomini? Guarda, sono in parti uguali da un punto di vista dei racconti che arrivano. Devo dire che i racconti delle donne sono più dettagliati e più accurati. Entrano più nel... è come se... riuscissi a intravedere qualcosa di più della persona che ha scritto quella piccola storia quando sono delle donne. Allora, appuntamento, Matteo? L'appuntamento è tutti i giorni per la diretta, cioè per il racconto di queste storie, visto che il programma è fatto in pratica di una storia al giorno, sì, di una persona diversa che racconta la sua storia, è tutti i giorni dalle 16 alle 16.45 e sono alle 24, dal lunedì al venerdì. Se invece c'è qualcuno che è un tuo ascoltatore, non un mio, e ha voglia comunque di raccontarmi un piccolo episodio della sua vita in una pagina, sì, noi li prendiamo volentieri. La mail. Voi siete qui, @radio24.it. Grazie a Matteo Caccia per essere stato con noi. Ciao Matteo, grazie, un abbraccio. Ciao Nicoletta. Ciao. E noi andiamo ad Anna dalla provincia di Ancona, poi abbiamo un'Anna da Verona, e poi il professor Demetrio ci dirà se ci sono delle differenze di genere, se c'è una scrittura femminile e una maschile. Anna, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, i complimenti, lei è molto brava e simpatica. Grazie. La trasmissione di oggi è particolarmente interessante. Grazie. Io volevo dire, come ho detto anche alla Rata, che a me piace molto leggere, piace molto scrivere, e soprattutto considero la scrittura liberatoria, consolatoria, ma anche maestra, e maestra molto rigida, nel senso che mentre scrivi, qualunque cosa posso scrivere, magari un momento che sei triste, oppure vuoi scrivere una lettera per esempio a tua madre anziana perché non la riconosci più, o a tuo marito dopo una lite, oppure dopo una giornata bella, o ad alcune amiche, o ad esempio come faccio invece con gli sms che rispondo agli articoli che leggo sui giornali, e i giornalisti, i grandi giornalisti, la cosa strana, rispondono. Dicevo che è anche maestra e rigida, perché mentre scrivi cioè ti forma una sorta di disciplina, soprattutto ti costringe a spiegarti meglio, a scrivere meglio in italiano, essere chiaro, e allo stesso tempo, quando dopo qualche ora, io qualche giorno lo lascio lì di cantare, mi rileggo e naturalmente a volte mi trovo esagerata, a volte ridicola, a volte invece mi piaccio e a volte capisco che certe cose è meglio che le lascio perdere. Insomma, quindi, Anna, è una grande palestra la scrittura. È una grande palestra, e è una grandissima palestra. Ovviamente mi piace scrivere sia al computer, ma spesso non mi sono distaccata dalle penne, dalle matite che amo, sulla carta bianca, perché lì è l'impatto e il fascino è diverso, è come vedere il film al cinema o la cassetta a casa. Anna, permetta che le faccia arrivare a casa La Baia altri racconti di Catherine Mansfield. Grazie per i suoi consigli e per essere intervenuta a Essere Benessere. 800 24 00 24. Professor Demetrio, donne e uomini davanti ad un foglio bianco. Ma innanzitutto voglio complimentarmi con Anna, perché ha saputo sintetizzare con queste tre parole, la scrittura liberatoria, consolatoria e maestra, il senso del nostro scrivere. E Anna ha anche accennato questo suo bisogno, che le è naturale, che spontaneo, istintivo, e che la caratterizza come donna. E questo non sempre accade nella scrittura maschile, soprattutto nella scrittura degli scrittori per diletto uomini, perché solitamente l'uomo che scrive ha una tendenza maggiore al pudore, a tenere per sé, a non scrivere i propri sentimenti. Le scritture maschili sono spesso dedicate anche ai racconti che hanno a che fare con il proprio lavoro, la propria professione. Sta crescendo un mondo maschile che scrive nell'età del pensionamento, nel momento in cui siamo come disorientati. E in questo io trovo le parole del grande scrittore israeliano David Grossman, il quale diceva: per me scrivere, e lo disse in un momento tragico per la perdita di suo figlio, per me scrivere è trovare un luogo. Ed è vero, scrivere ci dà la possibilità di ristabilire una bussola interiore, ci dà la possibilità di ristabilire un contatto con l'esistenza, con la terra. Io lo chiamo anche lo scrivere una specie di sestante che abbiamo bisogno ogni tanto di utilizzare. Ma per chi, sentendo anche la nostra trasmissione, come mi stanno scrivendo alcuni a proposito di SMS, dice: provo, da che cosa si comincia, di che cosa si racconta? E io consiglio sempre nella nostra scuola della Libera Università di Anghiari, ma anche ai miei studenti dell'Università di Milano, di iniziare dai primi ricordi, dai ricordi dell'infanzia, quali essi siano, perché se ci accorgiamo che ricordare per noi è una forma di affezione, di riaffezione alla memoria, al nostro passato, siamo già sulla buona strada. Perché spesso noi non scriviamo perché abbiamo un pessimo rapporto con la memoria, perché noi non vogliamo ricordare. Quindi occorre sperimentarsi, scrivere pochi ricordi delle prime immagini, delle prime impressioni della propria e se rileggendo quello che abbiamo scritto lo troviamo proprio si tratta poverello, di ma guarda, no, tutto perché, qua. Perché non occorre, come prima diceva Anna, subito andare alla ricerca della pagina perfetta, della pagina bella. Siccome ne abbiamo già parlato prima, la scrittura ha a che fare con le pulsioni, ha a che fare con un istinto, dobbiamo cercare di abbandonarci. L'altro consiglio che io do di solito è di scrivere a perdifiato, di scrivere seguendo un gioco di libere associazioni per vedere poi che cosa succede. A prescindere dalla punteggiatura, dalla sintassi, il problema è quindi smuovere questo disagio e questa difficoltà che spesso ci blocca. Abbandoniamoci, ma restate qui. Adesso informazioni sul traffico, aspetto le vostre chiamate per i consigli del professor Duccio Demetrio, i vostri consigli e i libri. Essere e benessere. Un messaggio mi arriva da Mario che mi scrive: ho smesso di fumare scrivendo. Ogni volta che volevo accendere una sigaretta fermavo su un foglio il pensiero del momento. Ho smesso. Professor Demetrio, più terapeutico di così, Mario ha avuto un'ottima idea. Bravo Mario. Anna, bravissima, da Verona, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Anna, lei fuma? No, io non fumo, ecco, fortunatamente. Però ha avuto una bella idea, Mario. Geniale. Dunque, mi dica lei. Sì, io ho cominciato quasi per gioco 2 anni fa a scrivere racconti con mio figlio. Quanti anni ha il suo bambino? Ha 11 anni. Era ancora alle elementari e la maestra aveva dato come compito scrivi un racconto. Sì. E quindi in cucina, nell'ora serale, mentre preparavo la cena, abbiamo cominciato io e lui a pensare alla trama, poi lui col computer scriveva, e questo gioco è diventato una passione per entrambi, perché abbiamo cominciato a scrivere queste storie. Racconti a quattro mani, Anna. Sì, sì. Prima pensiamo alla trama, la elaboriamo in maniera anche piuttosto confusa, come diceva il dottore, buttiamo giù proprio tutte le idee, il professore, suo ospite, buttiamo giù le idee così a raffica, ci prepariamo la trama, se c'è da controllare qualcosa su internet, verificare, lo facciamo e poi cominciamo a scrivere. Ed è un lavoro veramente, come diceva anche l'ascoltatrice precedente, di di grande rigore, perché le idee vanno ordinate, bisogna seguire una sequenza logica, lo stile va sistemato, e quindi anche mio figlio, diciamo, ha tratto giovamento da questa pratica, anche a livello, diciamo, un po' scolastico. E adesso ne abbiamo scritte quasi una decina, proseguiamo lentamente perché ovviamente... Anna, ce ne regala una che noi la mettiamo sul nostro, sulla pagina di Essere Benessere? Se vuole gliela mando. Io le mando invece a casa Rapimenti in famiglia, altri racconti di John Fante, e voglio leggere il messaggio di Viviana da Roma, che mi dice: non legge mai i miei messaggi, non posso scrivere. Certo, Viviana, che leggo volentieri. Scrivere per me è terapeutico, è maieutica. Sul foglio scendono petali di rosa delle mie emozioni che mi liberano. E adesso noi andiamo a salutare una scrittrice, ma devo aggiungere anche un'attrice, una conduttrice, e al suo quinto romanzo, la scrittura è entrata nella sua vita. Andiamo a sentirne un breve estratto. La prima volta è successo in quella casa, di plenilunio. Forse era la prima notte d'estate. Ci trovammo a terra, Davide sopra di me, nel buio. L'aria è così leggera. Oppure sono io così lieve che mi sento trasparente, evanescente. Non oso pronunciare quella parola. Ora la dico. Felice. Sono felice. E noi siamo felici di avere in linea con noi Katrin Spack. Buongiorno, signora Spack. Buongiorno a tutti, buongiorno. Amore blu è il suo quinto romanzo, una storia d'amore tra un giovane ragazzo e una donna, un incontro spirituale, come lo definisce lei. Ma quando è nata la passione della scrittura? È nato molto molto tempo fa. Prima sentivo appunto la mamma che scrive con il suo bambino mentre preparano la cena. Io ho cominciato a scrivere un diario quando ero molto piccola, appena, diciamo, saputo scrivere. Potrei dire questo, no? E ne ho scritti tanti di quaderni. Penso che sia molto importante farlo. È una terapia di autoguarigione, chiamerei così, no? Come il fatto di disegnare può essere l'indizio per persone qualificate di individuare un malessere o anche un benessere. Certo. La scrittura allo stesso modo ha questo potere terapeutico magico di guarigione. A chi consiglia di scrivere? Un consiglio un po' da addetta ai lavori. A tutti, anche soltanto prendere appunti anche dei propri sogni. Per anni io ho avuto un quaderno vicino sul comodino, vicino al letto, e quando mi svegliavo e ricordavo perfettamente un sogno durante la notte, lo prendevo nota e me lo ricordavo per poi riflettere Quindi simbolicamente. Possiamo proprio partire anche dai sogni. Professor Demetrio, mi sembra una buona idea, oltre che dei ricordi di quando eravamo piccoli, i sogni che ci vengono a trovare di notte. Amore blu, grazie alla signora Spack per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Abbiamo anche altri consigli in chiusura. Abbiamo Sara Maestri in linea con noi. Ciao Sara, conduttrice, attrice, l'abbiamo nel film Dietro il buio, che è stato presentato al Festival di Venezia. Ciao Sara, bentornata. Buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamata. Sara, La bambina dei fiori di carta. Sì, è un romanzo che nasce ormai 2 anni fa, perché è uscito il 14 febbraio del 2009, ma che continua a portarmi in giro con presentazioni. Infatti mi trovo a Caserta, dove questa sera verrà presentato addirittura nella lingua dei segni, perché mi trovo a Miss Sorda, e quindi verrà presentato appunto nella lingua, la LIS, la lingua dei segni italiana. Sì. E nasce in un momento di grande sconforto, in un'estate che a me apparentemente mi sembrava difficile. Su uno scontrino di carta, dopo che ho rivisto I medici del sorriso, inizio a buttare giù delle righe e ritorno bambina, quando io ero in ospedale perché mi era stata diagnosticata una grave malattia emolitica, sì, ahimè la leucemia, e di lì sono cresciuta. Ma del ricordo d'infanzia rimanevano solo i ricordi belli, perché era appunto quando ero bambina con la mamma vicino che mi faceva compagnia, e poi per assurdo invece nell'estate del grande sogno realizzato come un film di successo come Notte prima degli esami mi sono trovata sola e ho incontrato lo sconforto. Questo libro nasce proprio dal fatto di dire che spesso quando si vede una bambina malata si dice ahimè che poverina, invece un'attrice chissà che vita meravigliosa ha. Nella mia vita queste due vite si scioglievano e diventavano una sola, e quindi è stato un libro scritto per andare oltre l'apparenza ma sull'essenza della quotidianità, delle emozioni vere. Grazie a Sara Maestri perché ci ha dato un nuovo spunto. Io voglio chiudere con una mamma, con Barbara Tamborini, una mamma con la passione dello scrivere che ha da poco pubblicato il suo primo romanzo per ragazzi, Aiuto mi sono perso a Londra, dopo aver vinto il premio Arpino Inediti lo scorso anno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, cosa dà la scrittura ad una mamma? Cosa aggiunge? Eh beh, decisamente è un bello sfogo, una bella valvola di sfogo e soprattutto anche una soddisfazione quando si ha la fortuna poi di poter anche incontrare i lettori e pubblicare un libro. Quindi per me è stata una grande gioia, di sicuro. Terapeutico? Terapeutico, sì, divertente, stimolante, rende in movimento la giornata, è qualcosa che si può fare anche da casa e che per noi mamme è veramente prezioso. Quindi un consiglio anche per le mamme da Barbara Tamborini. Professor Demetrio, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie. Ma noi lasceremo sulla pagina di Essere Benessere una sorta di questionario per scoprire di autointervista per l'identikit dello scrittore per diletto appassionato. Grazie al professor Duccio Demetrio. Grazie a voi. Grazie a voi, appuntamento a lunedì. Essere e benessere.